Tempo di sport con Carlo Genta. Allora, Siniša Mihajlović da così. Dimmi di sì, che si può fare senza sparare parole d'amore. A così. Perché ci prendi. Dimmi di sì. No, non così. L'altro. No. Esatto, è proprio così. Mauro De Angeli in regia, Franco Piantanida in redazione, autore di questo programma e colui che ha inventato tutte queste cose. Siniša Mihajlović da dimmi di sì a no tu no. È notizia di oggi, ribadisco la mia volontà di rimanere alla Fiorentina. Qualche giorno fa sono stato contattato dall'Inter, ha detto Mihajlović. Ne ho parlato con Pantaneo Corvino ribadendo che avrei voluto rimanere a Firenze, ha detto stamattina. Poi è uscito dagli uffici della Saras Massimo Moratti annunciando che entro questo fine settimana succederà qualcosa. Quanto a Mihajlović, è la terza volta che sento questa cosa, ha detto Moratti. Sui nomi dei candidati sono gli stessi di ieri. Dunque si avvicina Giampiero Gasperini. È un piacere per me fare due chiacchiere con Pierpaolo Marino, che stiamo chiamando, che era in linea, che adesso recupereremo. Intanto vi do il contatto 800 24 00 24 per parlare con noi. Messaggi SMS 349 238 6666. Intanto nella notte dall'altra parte del mondo c'è il Santos di Neymar e Ganso, che ha battuto 2-1 il Peñarol e ha vinto la Coppa Libertadores. Neymar a segno, Ganso che ha trasformato il Santos, alla fine botte da Orbi in campo, Rissa e Gazzarra, come per fortuna dalle nostre parti raramente ne vediamo. Intanto c'è stato anche Pelé, che colpito sul vivo da Maradona ieri, che gli ha dato una volta in più del maleducato. Ebbene, ha tirato in mezzo Messi dicendo che per diventare più grande di lui dovrà fare più di 1283 reti. Questo ha detto Pelé. Altra notizia di giornata, poi andiamo sul mercato che registra l'interessamento dell'Inter per Criscito. Con De Laurentiis che ha detto vada pure, non vuole, chi va via da Napoli evidentemente non vuole tornare qui a giocare, vada pure, vada all'Inter, andrà all'Inter con Gasperini. Dicevo che è un piacere fare due chiacchiere con Pierpaolo Marino, che è arrivato in linea. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, ma con questo teatrino dell'allenatore che porterà a Gasperini, mi viene da pensare che teatrino così pubblico e così scoperto non è che l'Inter ci stia facendo una gran figura. Sicuramente, credo che si sia lasciato trovare impreparato Moratti di fronte all'esplosione del caso Leonardo, perché comunque evidentemente dei segnali dovevano esserci di un malessere nel rapporto e soprattutto di una mancata realizzazione di Leonardo nella figura dell'allenatore. E oggi l'Inter si è lasciato trovare impreparato e soprattutto l'impressione di un po' di divergenze di vedute all'interno, perché si sa che Moratti comunque aveva contattato Mihajlović, sì, e forse era la soluzione che più gli dava fiducia, garanzia, e dal settore tecnico invece è venuta la spinta per Gasperini. Io credo che la situazione sia ancora in evoluzione, a mio parere. Diciamo che nel complesso l'Inter come strategia, come programmatica, non è che ci ha fatto una bella figura, onestamente. Certamente, certamente, ma soprattutto per la pubblicità che è stata data a tutto questo. Ovviamente Leonardo, che pure è quello che ci ha fatto la peggior figura di tutti, ieri l'ho chiamato lingua biforcuta, è per me una grande delusione come atteggiamento e come comportamento, quello di Leonardo, che evidentemente riesce a vendere molto bene il suo sorriso. Leonardo evidentemente è un grande uomo di pubbliche relazioni, però come avviene in questi personaggi la diplomazia poi prevale sulla sincerità e sulla lealtà, ed effettivamente se vogliamo ripercorrere la carriera di Leonardo come dirigente prima, come allenatore poi e come dirigente di nuovo dopo, quindi nel futuro, diciamo che si trovano dei contrasti sulla possibilità di un personaggio che abbia un po' approfittato della fiducia dei suoi datori di lavoro, perché sì, non dimentichiamo che prima si è rivoltato contro Berlusconi, poi alla fine sorretto da Galliani quasi al punto impossibile, quasi al punto di contrastare Berlusconi, poi a distanza di tempo ha attaccato Berlusconi, che pure era stato il suo datore di lavoro per tanti anni, e dopo ha anche tradito Galliani andando all'Inter, perché poi alla fine non credo che Galliani sia stato contento del passaggio all'Inter di Leonardo. Certo, e alla fine ha morsicato la mano dell'Inter che l'aveva difeso. Esatto, e ora ha tradito anche Moratti, che tutto sommato gli aveva dato un giocattolo importante in mano, e poi tra l'altro trattandolo anche bene nel riconfermarlo, perché si sa che dalla squadra già venivano segnali piuttosto titubanti in questo senso. Senta, Pierpaolo Marino, cambiando argomento, ma perché Beppe Marotta non riesce a comprare un fuoriclasse vero alla Juventus? Quest'anno ci sta tentando, l'anno scorso forse ci aveva tentato ma con poca convinzione. E io credo che per comprare i fuoriclassi veri ci vogliono innanzitutto i capitali, e questo è vero, ma poi ci vuole anche la PIL, che probabilmente negli ultimi tempi la Juventus non ha più ai massimi livelli di applausometro come li aveva con la famosa triade, perché va riconosciuto alla triade la sua permanenza sempre in aree vincenti, e quindi la PIL della Champions League, che ora la Juventus non ha, e diventa difficile veramente comprare dei grandi campioni, e i grandi fuoriclasse stanno in squadre che sono già in Champions, e portarli via programmando e lasciandogli intendere che non giocheranno per quest'anno in Champions League non è una cosa molto semplice. Certo, io ho un'idea bizzarra, e se alla fine fosse Cassano il Prozac per gli juventini depressi? Ma non sarebbe un'ipotesi peregrina, anzi le faccio i complimenti, perché in effetti poi Marotta nella sua carriera di manager ha sempre di solito ripercorso le strade che aveva già abbracciato prima. Anche, credo che potrebbe essere anche un'ipotesi, perché Cassano poi non mostra quella necessità di dover giocare in Champions League, in quanto è un giocatore che l'ha fatta poco, e comunque a lui interessa soprattutto giocare in un grande club per conservare il posto in nazionale, quindi che possa essere un'ipotesi non peregrina, sì. E questo cozzerebbe con il programma che ha fatto la Fiorentina di prenderlo. Certo. Io le chiedo un'ultima cosa, una mia curiosità, gente che corre dei rischi, tra l'altro lei a lungo ha lavorato con Pozzo. Pozzo ne vuole 50 per Sanchez, Inler non si sblocca, potrebbe rimanere lì anche lui. Stesso discorso può valere per Pastore, cui Zamparini ha attaccato un cartellone del prezzo altissimo. Ma non è un rischio trattenere questi giocatori? Non è che si rischia di chiedere troppo e poi meno stringere alla fine? Ma il rischio sussiste su quei giocatori che dimostrano una labilità caratteriale. Però io non so Pastore, non lo conosco bene da un punto di vista caratteriale, ma mi sembra un giocatore a rischio da questo punto di vista, cioè mi sembra un giocatore che se non avesse l'entusiasmo che ha dimostrato in questi ultimi due anni del suo debutto a Palermo potrebbe anche avere una caduta nel rendimento. Ma per quanto riguarda Inler e Sanchez mi sembrano dei giocatori che Pozzo ha saputo integrare bene nell'Udinese. Non dimentichiamo che c'è stato Di Natale, che l'anno scorso non è andato via da Udine di fronte a tante richieste, non ultime quelle della Juventus, e si è ripetuto come capocannoniere del torneo. Quindi nutro qualche perplessità su Pastore dal punto di vista che possa effettivamente calare come quotazione l'anno prossimo, se non ceduto. Ma per quanto riguarda Inler e Sanchez, che io penso alla fine l'Udinese cederà sicuramente, io penso che comunque problemi nel rimanere a Udine non ci sarebbero. Sì. Io la ringrazio invece, buon viaggio, buon lavoro. È stato un piacere, grazie. Reciproco, ringrazio Pierpaolo Marino. C'è chi mi scrive, caro signor Lei, mi sembra che gli unici registi e attori di questo spettacolo teatrale siete voi giornalisti, scrive un ascoltatore da Padova via SMS, ovviamente riferito al teatrino nerazzurro. Concedetecelo, siamo passati dal contro Grande Fratello, oggi abbiamo cambiato scenario, è quello che avrete riconosciuto, di X Factor, relativo all'allenatore dell'Inter. Vi piace questa? Scommetto di no. 800 24 00 24. Perché Hiddink è sfumato, non vuole più allenare, vuole guadagnare un sacco di soldi, vuole più allenare un club, vuole guadagnare un sacco di soldi andando a fare il consulente del Chelsea, insomma non ne ha neanche ascoltati troppo questi dell'Inter. Quindi Hiddink no, anche lui è uscito ai quarti di finale. Degli Rossi sembra un'ipotesi sullo sfondo ormai lontanissima, rimangono delle suggestioni non so quanto credibili, da Rudy Garcia del Lille a Sanchez Flores, addirittura leggevo oggi a Figo e Klinsmann che avrebbero dato la loro disponibilità per la panchina dell'Inter. Tutto questo mi sembra sia passato in cavalleria, sono rimasti grosso modo due nomi. Uno è appunto quello che potrebbe magari eventualmente forse ancora tornare in gioco, cioè quello di Siniša Mihajlović. Però per me no. Con tanto dispiacere, però no. Mara, per me no. Io ti do un sì perché non ti meriti quattro no. Giusto, grazie. Ciao, grazie molte. Grazie tanto a te. Ciao. Ciao. Chi sono i sì e i no? Facile indovinarlo. Secondo me, poi ditemi anche la vostra, se volete, 800 24 00 24. Sono i no di Branca, di Della Valle e dello stesso Mihajlović, che ha di nuovo ribadito: potete anche discutermi come allenatore, ma come uomo no, ho detto che resto qui, voglio rimanere qui e non mi muovo di qui, da Firenze. Il sì è quello di Massimo Moratti, che invece aveva questa idea di Siniša Mihajlović. Per Gasperini invece si sono espressi così. Io ti do sì. Grazie. Io dico di no. Il mio è un sì. Ti do un sì. Stavolta ce la possiamo fare. Anche Moratti ha detto entro il weekend succederà qualcosa. E sì, è evidente, no? Branca che ha suggerito il nome di Gasperini fin dall'inizio. Mourinho, perché Mourinho ha consigliato, qui è stata fatta ovviamente una telefonata, ci mancherebbe altro, ha consigliato Gasperini, che ha sempre pubblicamente elogiato moltissimo quando allenava l'Inter, dicendo che Gasperini è quello tra gli allenatori italiani quello che più l'ha messo in difficoltà. Il no è quello di Massimo Moratti, che appunto voleva Siniša Mihajlović o chissà chi altri. L'altro sì, quello decisivo, potrebbe anche essere chissà quello della banda Genoa, no? Che abita ora all'Inter da Milito, a Thiago Motta, a Ranocchia, a Karja, a Criscito, che si aggiungerà a questa banda Genoa, a questo massiccio trapianto del grifone in maglia nerazzurra. Vabbè, adesso cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Se la Juve compra Cassano è la volta buona che smetto non di fumare ma di tifare, scrive un ascoltatore. Giovanni, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono un tifoso interista. Sì. Sono un po' deluso non dalla scelta, se sarà Gasperini, ma quanto da come si è arrivata a questa scelta. Io mi occupo di direzione commerciale di un'azienda molto piccola rispetto all'Inter, ma insomma per noi sono fondamentali le strategie, la visione è tutto, è notare come una società importante come l'Inter, che negli ultimi anni poi è ormai è nel novero delle aziende, delle società importanti di calcio, è questa situazione, queste settimane passate a tutti questi nomi, queste incertezze. Mi sembra veramente un atteggiamento di grandissima debolezza, di grandissima impreparazione. Volevo capire da parte vostra, perché io non riesco a capire, ecco, una situazione del genere. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei Giovanni. Ma insomma, negli ultimi anni c'è sempre stata una guida forte sulla panchina dell'Inter, lo era anche Mancini. Branca ha lavorato benissimo in queste ultime stagioni. Probabilmente l'Inter sta pagando ancora un prezzo all'addio di un uomo che non era solo un allenatore, ma era una guida per l'intera società, e cioè Giuseppe Mourinho. In questo frangente, con Leonardo, che inevitabilmente ci ha messo del suo perché non si è comportato bene, anzi si è comportato malissimo, secondo me, con un Inter che l'aveva preso e poi difeso sempre e a tutti i costi contro chiunque, a fronte di risultati che non sono stati alla fine il massimo della vita, perché ha sbagliato le due partite chiave della stagione, che sono state il derby e quella con lo Schalke 04 che è costata l'eliminazione. Dunque risultati buoni sì, stagione forse da 6.5, forse da 7, poi questi voti gli ha dati anche Moratti. Ebbene, l'Inter lo ha sempre difeso e lui alla prima occasione che si è presentata per andare a guadagnare molti soldi con molte meno responsabilità in un ambiente certamente molto meno oppressivo di quello nerazzurro, ebbene ha tradito. Detto questo, sono in questa situazione di difficoltà, in questa situazione imprevista, sono tornate allo scoperto probabilmente vecchie crepe, vecchie abitudini, non ci sono molte altre spiegazioni da dare. Maurizio, provincia di Caltanissetta, buongiorno. Caro direttore, buongiorno. No, direttore, siamo no. Seri. No. Siamo seri intanto quando parliamo dell'Inter. Ancora questa storia della serie C, siamo serissimi. No. Eh. Ho seguito la trasmissione ieri e francamente quell'ascoltatore che diceva di essere serio effettivamente. Ma ce ne sono degli altri, Ma a me mi diverto così. Anche. Boh, come no. Allora. C'è chi scrive, ma ci pensate la notte a questi agghiaccianti stacchetti? No, ci pensiamo la notte, ma anche il giorno. Insomma, c'è Franco Piantanita che ci pensa in continuazione 24 ore su 24 e ve li regaleremo per tutta l'estate. Vi piacciono o no? Io le assicuro che piaccia o non piaccia, come dice qualcuno. Siamo più quelli che gradiamo, ovviamente. Questo benissimo. Domani c'è Palla Speak. Domani parliamo di basket e sarà con noi Danilo Gallinari. Questo lo dico a tutti. Esatto, perfetto. L'ho ascoltato ieri. Sì, sì, tutti sì, potranno sì. intervenire naturalmente. Dica, allora, le farò sentire anche Oronzo Canoa, Stretto Giro di Posta, perché, perché secondo molti ascoltatori poteva essere una figura giusta per la panchina dell'Inter. Carismatica, certo. Sì, carismatica. A noi. Dica. Allora, io volevo solo dire il fatto che la Juve abbia perso un po' l'appeal per quanto concerne il mercato, soprattutto sui giocatori importanti, vabbè, questo ovviamente per quel che è capitato si può anche capire. Però che l'abbia perso l'Inter, che l'anno scorso ha vinto un triplete, questo effettivamente fa capire un po' di che società stiamo parlando, ecco. Ma tutto questo si capisce che sono juventino. Io volevo puntualizzare invece il discorso sulla campagna acquisti della Juve. Sì. È suggerita al DS Marotta, secondo me, con tre acquisti la Juve potrebbe rilanciarsi alla grande. Quali sarebbero, secondo lei? Secondo me sono Cassano a prezzo di saldo dal Milan, Drogba a prezzo di saldo dal Chelsea. I saldi del Chelsea sono sì, robe, sì, no, secondo me sono robe alte. Ma non ha giocato l'anno scorso tutto l'anno. Sì, sì, ma Drogba è un giocatore che non difficilmente vedremo in saldo, Maurizio. No, come idea mi sembra corretta, anche se ieri la Juventus ha fatto la spesa al mercato dei riscatti, saprà. Però c'è anche tanta gente ancora da far uscire, diciamo sì. così, dalla squadra, per cui si potrebbe anche monetizzare con i vari Amaurì, Quinta, Italia Midic, Rosso, Grigera, quindi qualcosina si può ancora raccogliere. Lì sì che parliamo di saldi, mi permetta, anzi mi consenta, dica. E poi il vero acquisto forte, secondo me, quest'anno dovrebbe essere quello di Giuseppe Rossi. Secondo me bisognerebbe puntare su quello, visto anche un po' l'intesa che hanno avuto i due, Cassano e Rossi, in nazionale poco tempo fa. Ecco, sì. Secondo me il DS Marotta dovrebbe puntare un po' su questo trace di acquisti. Anche se, le dico, Matri Quagliarella ha riscattato ieri per tanti soldi, lei dice Drogba, dice Cassano, dice Giuseppe Rossi, 5. 5 sono tanti, 5 sono tanti lì davanti, sono certamente troppi. Quello di Giuseppe Rossi mi sembra il nome più intrigante tra questi, posto che Drogba a prezzo di saldo, ripeto, non lo vedremo mai. Posto che Cassano può essere un'idea e vedrete che se ne parlerà quest'estate, potrei sbagliarmi, ma non credo, perché Cassano davvero potrebbe essere forse la mossa della disperazione, forse per i motivi che abbiamo detto prima con Pierpaolo Marino. Potrebbe essere davvero lui il Prozac per gli juventini in stato un po' di depressione. C'è Marco che scrive, ma il River di Lamela? Meglio Colaso del Boca. Comunque Neymar e Ganso sono un'altra cosa, loro sembrano fenomeni veri. E tra poco ne parliamo del River di Lamela per la prima volta nella storia sull'orlo, davvero sull'orlo della retrocessione. Ieri abbiamo parlato di Lamela, però visto che la rubrichetta di questi carneadi, comunque queste stelle emergenti, se vogliamo, del mercato. È piaciuta? Continuiamo. Lui chi è? Ieri era la mela, oggi è questo giocatore, questo attaccante cileno del Bayer Leverkusen, che il Napoli vorrebbe tanto, che il Bayern di Monaco vorrebbe ancora di più, ma che l'attuale detentore del cartellino, cioè Rudi Völler, ha detto al Bayern Monaco: a voi neanche in foto. Arturo Vidal, cileno, che vedremo accanto a Sanchez in Coppa America. Ma chi è Arturo Vidal? Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di freschezza e vitalità, ma non parlategli di shampoo e bagnoschiuma. Il presidentissimo del Napoli sta cercando l'Elisir in un centrocampista da regalare a Mazzarri. Il nome che circola è quello di Arturo Vidal, vero e proprio jolly della mediana del Bayern Leverkusen, di cui quest'anno è stato il capocannoniere, con 10 reti. 24 anni, prodotto della cantera del Colo Colo, Vidal è un tipino mica da ridere, a partire dal soprannome. Lo chiamano Celia Punk, un mix tra la sua passione per la mitica regina della salsa cubana e la pettinatura con cresta da panchettone. In campo sa fare di tutto e di più. Oltre ai gol e agli assist, 11 in Bundesliga quest'anno, si è fatto notare per il carattere guerriero che gli ha portato in dote 35 cartellini gialli in 117 partite col Bayer. Il Napoli pare aver offerto 10 milioni di euro per il suo cartellino. A giorni la risposta e i tifosi del Napoli sono pronti ad accoglierlo in un bagno d'entusiasmo. Un abbraccio, nuova prezza, aria di felicità, una vita, vita. Sempre Franco Piantanida, autore di questa scheda. Dunque, il solito Piantanida, c'è chi preferisce margheritoni alla mela. Invia un sms a tale proposito a 349-238-6666. Telefonate all'800240024. Invece, come promesso, andiamo in Sud America da Emiliano Guanella. Ciao Emiliano. Ciao Carlo, ciao. Come saprai, da tifoso del Boca, quale sono? Un pelo godo, è inutile che lo nasconda perché ci sta. Però il River Plate della nuova stella, se sarà una nuova stella, la mela, è a un millimetro dal burrone, dalla retrocessione in seconda divisione. Sembra incredibile. Sembra incredibile, però è la conseguenza non di una stagione, caro Carlo, però di 3 anni di gestioni fallimentari, di una politica dirigenziale al limite appunto della criminalità, perché sono stati venduti giocatori importanti, non sono stati comprati giocatori importanti, di scelte proprio assolutamente incredibili. E tra l'altro, appunto, perché dico 3 anni? Perché in Argentina, a differenza del resto del mondo, c'è una regola nel campionato argentino per cui le retrocessioni non vengono decise con un campionato o due. Ricordiamo che il campionato di prima divisione, la Serie A, è diviso in 2 campionati all'anno, l'apertura e la clausura, quindi ci sono 2 campioni. Ecco, caro Carlo, per decidere chi va in Serie B si fa la media di 3 anni, quindi sì. 6 campionati, un calcolo complicatissimo con, cioè, appunto, dividendo i punti totali per il numero delle partite. E quindi pensa un po', il River Plate è a un passo, ha fatto lo spareggio ieri col Belgrano di Cordova, ha perso 2-0 a Cordova, tra l'altro sì. Scene bruttissime. A un certo punto, Carlo, al 10° minuto del secondo tempo, quando River sta prendendo 2-0, non li chiamerei tifosi, ma 3 imbecilli sono entrati in campo e per spingere, probabilmente volevano addirittura menare, pestare, picchiare i giocatori. La partita è stata fermata per più di 15 minuti, una scena bruttissima, un capitolo assolutamente ignobile del calcio argentino. E adesso domenica si gioca il ritorno allo Stadio Monumental. River deve vincere, deve vincere perlomeno con 2 gol con 2 gol di scarto. Passarella, l'attuale presidente del River Plate, lo conosciamo, il Kaiser Passarella, che ha vinto l'anno scorso le elezioni, ormai appunto assolutamente odiato e ripudiato dai tifosi, non è nemmeno andato a Cordova a vedere questa partita di spareggio, è rimasto a Buenos Aires per paura appunto di incappare nella furia dei tifosi. 110 anni, 31 campionati, River non è mai andato in Serie B, e a questo punto sembra una volta buona. Io direi in qualche modo, ecco, non me ne vogliono i tifosi di River, se li merita, perché sei campionati che ti fa male, insomma. Beh, certo, non è un caso. Certo, non può essere un caso. Se vogliamo parlare invece di risse da strada, però, Emiliano, anche la finale di Libertadores non è stata malissimo, Lì è stata ancora più strana. Ieri appunto era una grande notte di calcio sudamericano, perché la partita fra il Santos e il Peñarol, ha vinto Santos 2-1, giusto e meritatissimo campione della Libertadores, però onore anche il Peñarol, che è una squadra molto meno blasonata e con meno campioni del Santos, ha tenuto banco fino alla fine. La partita era stata sostanzialmente tranquilla, dura, importante, giocata con un ritmo anche molto molto molto alto, molto forte, però non particolarmente scorretta. Cosa è successo? Queste cose appunto del calcio sudamericano, speriamo che ora la Coppa America non si vedranno, che al fischio finale dell'arbitro dei tifosi sono entrati in campo e sono andati a sbeffeggiare i giocatori del Peñarol. Ovviamente hanno risposto, mega rissa, insomma, cose allucinanti succedono intorno al calcio sudamericano. Detto questo, dal punto di vista calcistico, questa rissa finale non toglie i meriti al Santos. La squadra di Neymar, di Ganso, ieri ha giocato benissimo anche Danilo. Insomma, Santos è veramente la squadra in questo momento. Come li vedresti Neymar e Ganso nel nostro calcio? Ganso ha trasformato il Santos. Nella partita d'andata non c'era, ieri Neymar è andato a segno. Probabilmente arriverà a Real Madrid. Sono due super giocatori, due super stelle nascenti vere, di cui si parla da un paio d'anni. Come li vedresti da noi? Io credo che già sono delle stelle, già sono importanti. Io sono stato con entrambi un mese e mezzo fa a Santos, li ho intervistati. Neymar è un fenomeno, a parte la cifra calcistica, è un fenomeno perché è un ragazzino molto estroverso, popolarissimo in Brasile. Succede che quando Neymar va a battere un calcio d'angolo, ragazzine urlanti tipo stella del rock, Ganso invece è molto più centrato. Adesso entrambi presentano dei ma. Dal punto di vista di Neymar, ieri si è visto, Neymar a volte eccede nell'estro tipico brasiliano, ha una classe sicuramente superiore alla media, a volte, ieri per esempio si è mangiato un gol, poteva essere il gol del 3-1 clamoroso, però è sicuramente un fuoriclasse. Ganso, il ma di Ganso, che secondo me per il calcio italiano sarebbe utilissimo, perché ai noi ci mancano proprio quei giocatori di organizzazione da centrocampo in su. Il male di Ganso è le condizioni fisiche. Sì, certo. Per essere così giovane ha avuto più infortuni di un reduce. Esattamente, però assolutamente fuori classe. Insomma, avercene di Ganso e Neymar, sì. Vediamo, su Ganso sappiamo che Milano sponda Inter, sponda Milan, a un certo punto erano molto più vicini. Adesso bisogna vedere cosa succederà. Forse Santos se li terrà entrambi per la finale della Intercontinentale, a questo punto a Tokyo. Questo punto potrebbe anche essere un'idea in stile Udinese, grosso modo, correndo un grande rischio, perché se Ganso si fa male un'altra volta, dubito che sia possibile trovare un interlocutore disposto a cacciare molto, molto grano. Grazie Emiliano, un abbraccio. Grazie a voi. A presto, alla prossima. Daniele da Milano, poi Elia da Verona dopo il traffico. Sentiamo prima Daniele, mentre c'è chi ha una brillante idea. Cristian da Vicenza, la soluzione per l'allenatore dell'Inter potrebbero essere le primarie. La giro alla redazione. Daniele, buongiorno. Buongiorno signor Genta, le primarie sono buone, veramente. Non è male. Però io non è che sono troppo d'accordo con lei per quanto riguarda la società. No, non è una cosa così importante. Per quanto riguarda la società, voglio dire, perché la società deve essere bistrattata per questo motivo dell'allenatore? A un certo punto non è colpa di nessuno se Leonardo ha preso. Non per questo. L'Inter non c'entra nulla nel tradimento, e questo è un tradimento vero di Leonardo, questa è una vigliaccata vera di Leonardo, che mi ha molto deluso e faccio fatica anche ad essere più tenero nei suoi confronti. L'Inter nulla c'entra con la vigliaccata di Leonardo. È altrettanto evidente però che questo pubblico mercato dell'allenatore, questa sorta di casting di X Factor, le primarie, vale tutto, no, a questo punto. È chiaro che probabilmente la vicenda non è stata gestita nella migliore maniera. Faccio un esempio: il Porto aveva Villas Boas con questa clausola rescissoria mostruosa. Non si è molto parlato in termini concreti di un addio di Villas-Boas fino a quando non è andato al Chelsea. Ha preso l'aereo, è andato a Londra, è stata versata la clausola rescissoria o verrà versata, e tempo mezz'ora o mezza giornata il Porto aveva un allenatore nuovo che era il vice di Villas-Boas, che era stato promosso. Quindi vicenda risolta in maniera rapida, indolore. Non credo che, insomma, al Porto fossero all'oscuro di queste trattative tra Villas-Boas e il Chelsea, però così tanto rumore, mi viene da dire, si fa solo all'Inter. Ci sono molti ascoltatori che insistono in maniera poco elegante via SMS nel dare ragione a Gattuso e a quel coraccio da osteria, da bordello su Leonardo. Non mi associo certamente, non voglio scendere in questa grotta, in questa cantina, però certamente insisterò nel dire che Leonardo si è comportato da bambino viziato, come minimo, in questa vicenda. Elia, Verona, buongiorno. Sì, buongiorno signor Carlo, innanzitutto ringrazio per l'opportunità. Sono un ascoltatore per dare un sondaggio che segue con lo stesso interesse la trasmissione sia ora come quando la seguiva durante la stagione calcistica. Quindi io sono favorevole a questo taglio. Va bene, detta questa premessa, facciamo le primarie anche noi. Chi dice 5 minuti per sapere chi sarà il nuovo allenatore dell'Inter e poi stop al televoto. Ok, io adesso se daranno la possibilità vado controcorrente. Sono contento della scelta di Gasperini, innanzitutto perché penso che un allenatore italiano, quindi sa cosa significa giocare in Italia e curare la fase difensiva, visto che l'anno scorso eravamo una squadra che andava con due piloni in mezzo al campo a prendere contropiede e gol ovunque. E credo che, come se possiamo tra virgolette prendere esempio dai cugini che hanno deciso di puntare su Allegri, la cosa più importante e fondamentale sarà quella di difendere il lavoro dell'allenatore anche nei momenti difficili. È questo. Io credo. Ma sa la mia perplessità, la mia perplessità, caro Elia, la mia perplessità su Gasperini, che continuo a considerare un bravissimo allenatore, anche se sulla fase difensiva potremmo pure discutere, perché non è che al Genoa ne abbia presi pochi. È vero che aveva un portiere molto sotto i limiti della presentabilità, però sinceramente nell'ultima stagione il Genoa di Gasperini aveva più buchi di trovate voi un paragone che non sia Groviere, insomma, uno che volete. Quindi sulla fase difensiva vediamo. La mia perplessità vera è però che sta nel fatto che Gasperini certamente non è abituato, perché non ne ha mai avuto l'opportunità, di stare in un ambiente che sbriciola, che consuma come quello dell'Inter. Altre volte ho detto che all'Inter più che un allenatore servirebbe un domatore, ma perché l'ambiente è così. Io credo che ci siano allenatori adatti a guidare grandi squadre, che è un mestiere per me diverso rispetto a quello di condurre squadre medie, piccole, squadre di lignaggio diverso, e Gasperini ha la sua grande occasione, o avrà nel weekend ufficialmente, o stasera, non so quando, la sua grande occasione di guidare l'Inter. Però la perplessità mia resta. Vorrei chiudere invece facendo due chiacchiere con un altro nostro amico, che è sempre un piacere ospitare, ex pilota, commentatore televisivo, direttore di Riders, Roberto Ungaro. Buongiorno Roberto, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Perché dall'Olanda, da Assen, arriva la notizia, la sapevamo, che la Ducati rischia tutto presentando in pista la moto del futuro, mossa quasi dalla disperazione. Però ci sono le prime libere che dicono come questa mossa della disperazione su una pista bagnata e con tutti i dubbi del caso possa anche pagare, chissà, nella sua follia. Valentino Rossi secondo nelle prime libere alle spalle di Simoncelli. Questa mossa della Ducati, direttore, come la leggi? Molto coraggiosa, non c'è mai stato un precedente. Quando si cambia qualcosa piuttosto si guarda il passato, si tirano fuori i vecchi telai addirittura. Ma anticipare così tanto di 6-8 mesi un progetto che è destinato per la prossima stagione, sapete tutti che nel 2012 arriveranno i 1000 e quindi le moto sono dimensionate in modo diverso, hanno visto che non andava, non c'era verso, e c'è il motivo, perché il progetto Ducati è un progetto completamente diverso dalle altre moto. In sostanza la Ducati non ha telaio e quindi non si riesce a renderla più o meno agile, più o meno flessibile nella guida, come si può fare con le altre moto, con i motori quattro cilindri tipo Yamaha, giapponesi, ma anche Honda. Cosa hanno fatto? Hanno anticipato, solo che quando si corre in questa serie di prototipi, che sono lo stato dell'arte, tutto va calcolato, verificato e non si può assolutamente rischiare. Filippo Preziosi, il capoprogetto di questa Ducati, ha deciso di anticipare. La moto dell'anno prossimo l'hanno messa sulla pista e correrà con il motore però 800. Allora c'è un punto di domanda, perché non è detto che il motore 800 dia gli stessi risultati di quel telaio che poi sarà guidato col motore 1000, perché la moto è un equilibrio molto delicato, è l'insieme di prestazioni, quindi motore ciclistica, che dà il risultato. È veramente un grosso punto di domanda, e soprattutto con l'acqua, perché il bagnato farebbe svanire quello che è il potenziale di questa moto. È anche vero che Valentino ha dichiarato che la moto che ha provato le è rimasto molto soddisfatto. Quindi sì, vuol dire che la direzione è giusta, perché loro hanno cercato di renderla più maneggevole cambiando il telaio anteriore, sì, che è un piccolo traliccio, perché ricordiamo che la Ducati ha il motore portante, è questo il grosso problema. Direttore, volevo chiederti una cosa, cioè quello che tutti pensano al di là della moto, che rappresenta un grande problema, quello che tutti pensano e forse nessuno osa dire fino in fondo, ma Valentino è al tramonto secondo te? Ancora no, perché analizziamo, Valentino è nato e cresciuto con moto molto agili, tutte sull'anteriore, Honda, Yamaha in primis. La Ducati è esattamente il contrario, è una moto lenta, dura da inserire in curva. Io l'ho visto a bordo curva, a bordo pista, Valentino, non è lui. Ah. Cioè non è un calo, sì, sì. Capisci cosa voglio dire? Certo, dato da certo. Non è, la non è un paura, calo. La sì, prima sì. caduta, uh-huh. i riflessi, un pilota che rinuncia, non è quello. È una moto che per lui in questo momento non va bene. Senti direttore, posso darti un appuntamento pubblico? Se hai tempo e voglia, è domenica dopo la corsa. Domenica dopo la corsa? Sabato ad Assen si corre l'Assen. Certamente, noi abbiamo programma la domenica e domenica verrò a disturbarti per tornare a fare due chiacchiere con calma e con i risultati in mano di questa gara. Grazie, perfetto. Grazie, sarà grazie, mio piacere. Grazie, grazie, grazie. Grazie a Roberto Ungaro, con cui chiudiamo il programma di oggi. Domani tutti qui per chiudere la stagione di Palla Spicchi con Danilo Gallinari, che sarà seduto vicino a me. 800 24 00 24, prenotatevi da quando volete. Franco Piantanida in redazione, Mauro De Angeli in regia, Francesca Schiavone al terzo turno di Wimbledon, partita che si è chiusa ora, e quindi terminiamo dandovi questa splendida notizia. A domani.